kumatene no nginyamyanie madhani we kumatene na mende kwania mondo ya mukono munde kimondo mani mondo ya mukwewo munde kimondo mani madhani we kumatene na no nginyamyanie madhani we kumatene na mende kwania. Sio bianzia, sio bianzia, sio bianzia, sio bianzia, sio bianzia, sio bianzia, yangi mabina onde mabina onde mabina onde.